Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. L'estate è finita, è ora di tornare ad accelerare sulle riforme. La parola d'ordine dell'Europa economica arriva dal presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem al primo vertice, seppur informale, che riapre con questa settimana i dossier sul tavolo. Vertice a Bratislava, mentre sentivamo i paesi del sud discutono invece ad Atene. Un'Europa che riparte nel primo vero vertice dopo l'estate con tre grandi interrogativi: crescita ancora debole, inflazione senza segni di risveglio, percorso ed effetti della Brexit, tutti da valutare. Di fronte all'incertezza, si sa, ci si rifugia nei porti sicuri, che per i vertici di Bruxelles sono riforme e conti in ordine. Ed è allora questo il messaggio che arriva da Eurogruppo ed Ecofin riuniti a Bratislava. Le parole del presidente Dijsselbloem rivolte alla Grecia possono di fatto essere estese a diversi altri paesi. Ora che l'estate è finita, dice Dijsselbloem, il governo di Atene deve accelerare sulle riforme previste dal terzo piano di salvataggio. So this was our first Eurogroup after the summer break. Many challenges ahead. You sometimes get the atmosphere of doom and gloom over the Eurozone. I'd like to say that the economic recovery is progressing. Molto intenso intanto il lavoro del ministro dell'economia Padoan, numerosi contatti nella capitale slovacca in quel percorso tortuoso per il nostro paese per ottenere maggiore flessibilità. Un altro mezzo punto di prodotto interno lordo che spinga il rapporto deficit-PIL al 2,3-2,4% anche nel 2017. Cauto su questo punto tuttavia il commissario agli affari economici Moscovici, che spiega l'Italia ha già beneficiato di molta flessibilità e deve rispettare le regole che sono flessibili e intelligenti. Ne discuterò in un incontro bilaterale con il ministro Padoan, ma non bisogna avere troppa fretta. Aspettiamo comunque, dice Moscovici, il documento programmatico di bilancio che arriverà entro il 15 ottobre. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vertice e controvertice. Nelle stesse ore prova a compattarsi il fronte contro l'austerity guidato proprio dalla Grecia, un fronte meridionale che punta a mettere le carte sul tavolo del Consiglio europeo di Bratislava del 16 settembre. Ad Atene sono seduti allo stesso tavolo i premier d'Italia, Francia, Cipro, Malta, Portogallo e naturalmente Grecia, con l'intento di indirizzare l'Europa verso una svolta pro-crescita. Ma l'attacco durissimo è arrivato da Manfred Weber, il capogruppo del PPE al Parlamento europeo, che accusa Tsipras, Renzi e Hollande di fare i soliti giochetti senza, dice, senso di responsabilità. In agenda ad Atene anche il tema dei migranti e la sicurezza, fronte questo su cui si discute ad Ankara, dove sono arrivati l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini e il commissario all'allargamento Johannes Hahn. La Turchia è pronta ad aprire il capitolo sull'energia nei negoziati con l'Unione Europea, hanno fatto sapere dal governo turco, e dopo le polemiche per la mancata presa di posizione europea è toccato a Federica Mogherini sciogliere il silenzio e rassicurare sul dopo golpe. This is a very important occasion, first of all. Abbiamo espresso solidarietà, il massimo rispetto per come il popolo e le istituzioni turche hanno difeso la democrazia durante il colpo di Stato, ha detto. Per l'Unione Europea non c'è spazio per un tentativo di golpe, sosteniamo le legittime istituzioni e nel pomeriggio visiteremo il Parlamento bombardato durante il fallito colpo di Stato. Al via intanto alla Corte di Giustizia dell'Unione la causa di Bruxelles contro l'Italia per il mancato recupero del cosiddetto prelievo supplementare dai produttori per le quote ratte. Bruxelles stima che restino ancora da recuperare 1,343 miliardi di euro dai produttori. Ogni anno, ricorderete, dal 95 al 2009 l'Italia ha superato la quota nazionale per il latte, vicenda non ancora chiusa. Infine avanza anche il pressing dell'Unione Europea su Volkswagen per far ottenere ai consumatori europei un indennizzo sulla falsariga di quanto fatto per quelli americani. C'è già stata una prima riunione e il numero record è di 31 associazioni di consumatori di diversi paesi. C'è anche l'Italia a fianco della Commissione Europea. L'obiettivo è che tutti i consumatori europei, a prescindere dalle diverse legislazioni, nei 28 ottengano il trattamento più equo possibile. La prossima settimana dovrebbe essere finalmente conclusa anche la relazione della Commissione ad hoc del Parlamento europeo sul Dieselgate. Allora, torneremo a parlarne. Nel frattempo ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Vi ricordo, l'Europa, come sempre, vi aspetta questa sera ad Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.